Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio, una puntata speciale. Ovviamente abbiamo dato necessariamente maggior spazio al nostro giornale radio e continueremo, come vi ho già anticipato, a mantenere il nostro filo diretto sulla tragedia di Viareggio con collegamenti con il nostro Massimo Di Scienza, che tra poco tornerà a raggiungerci in studio, ma naturalmente c'è Salva Danaio con il tema che abbiamo scelto per questa giornata. Il presidente dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, Corrado Faissola, sarà ascoltato dalla Commissione Finanze della Camera dopodomani, giovedì 2 luglio alle 15, sulla questione della commissione di massimo scoperto. Nei giorni scorsi il Ministero dell'Economia aveva risposto ad una interrogazione parlamentare della Lega, sempre in commissione, rilevando la nullità di clausole analoghe, sia pur poste sotto denominazioni differenti. Che questione complicata. Una nullità della commissione di massimo scoperto che era stata, lo ricorderete perché ne abbiamo parlato più volte, sancita dal decreto anticrisi dello scorso dicembre, ma poi questa commissione era stata reintrodotta dalle banche con nomi e modalità differenti. E allora il Consiglio dei Ministri cosa ha fatto? Ha ritenuto di dover intervenire di nuovo venerdì scorso sulla questione con un nuovo provvedimento che a molti è apparso come una soluzione di compromesso con le banche, che è abbastanza naturale, non vogliono rinunciare a questa fonte di ricavo. Peraltro diversi istituti di credito neanche la applicano. E quindi cosa ha fatto il governo? Ha dichiarato nulla la nuova struttura commissionale che è stata predisposta da molte banche in questi mesi e sui conti affidati, e ha stabilito che il corrispettivo per la messa a disposizione di somme a favore del cliente non possa essere superiore dello 0,5%, allo 0,5%. Allora, noi sembra che la questione si sia ulteriormente complicata. Non vorremmo usare questi termini, ma davvero sembra che sulla commissione di massimo scoperto sia una sorta di guerra aperta fra banche e tesoro, ma nella confusione pagano i consumatori, pagano le aziende che non possono fare a meno di utilizzare fidi e scoperti di conto. E allora noi stamattina facciamo un punto della situazione alla luce delle informazioni che abbiamo, perché il decreto fiscale è stato approvato, lo abbiamo detto, venerdì scorso, ma non è stato ancora pubblicato in Gazzetta, per cui magari potrebbero emergere qualche ulteriore precisazione che potrebbe dare anche una luce completamente nuova a quanto approvato appunto dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso. Comunque oggi noi vi raccontiamo quello che venerdì è stato deciso e che cosa ricambia di nuovo per clienti affidatari. 800 24 00 24 è il numero verde che avete a disposizione per interagire con noi, ma soprattutto con i miei ospiti, con gli ospiti di Salva Danaio di questa mattina. L'avvocato Gloria Gatti, che tra l'altro oltre a fare il legale è anche una delle firme delle Esperto risponde del Sole 24 Ore. Avvocato, bentornata. Buongiorno, grazie. Ci eravamo già risentite a gennaio sullo stesso argomento, proprio per commentare la prima misura anticrisi del governo, e poi in questi mesi insomma sono arrivate tante novità e soprattutto abbiamo commentato in questi mesi più volte queste nuove strutture commissionali che le banche hanno applicato agli scoperti di conto e ai conti affidati in sostituzione della commissione di massimo scoperto. Non ci potevamo far mancare la presenza di un'associazione dei consumatori. Fabio Picciolini, segretario nazionale della di Consum, bentornato. Grazie, buongiorno. Allora, il numero verde per gli interventi degli ascoltatori io l'ho ricordato, ma vi ricordo che potete anche commentare la questione di stamattina all'800 24 00 24. Rapidamente, la borsa è positiva stamattina in Europa, ma la partenza è stata molto più debole per i listini del vecchio continente, che adesso in gran parte stanno in realtà orientandosi intorno alla parità. Abbiamo Parigi sullo 0, Francoforte più 0,05, Londra più 0,11. Molto meglio vanno le cose a Milano, dove il FTSE MIB guadagna lo 0,90%. Abbiamo uno scatto del Banco Popolare più 7,25%, va mediamente bene tutto il comparto finanziario stamattina in tutta Europa. Monte dei Paschi più 4,45, CIR più 3,73, Impregilo e Buzzi Unice il rialzo dell'1,7%. Abbiamo un punto e mezzo di progresso su Autogrill e su Atlantia, la ex Autostrade. Segno meno invece su Ansaldo, meno 0,9, Campari meno 0,7, Mondadori meno 0,6, Intesa meno 0,3%. L'euro sul dollaro riconquista la soglia di 1,41, il petrolio nelle ultime ore è balzato di nuovo sopra i $72 al barile. Lasciamo rapidamente la borsa. Una breve scheda che ci riepiloga la questione e il punto della questione sul massimo scoperto, eccola tra poco. Vittoria a metà per le banche nella trattativa con il governo per modificare le commissioni di massimo scoperto. Il balzello tanto odiato dai correntisti è stato infatti modificato dalla manovra estiva approvata la scorsa settimana e non cancellato come previsto inizialmente. In seguito al decreto anticrisi che 6 mesi fa aveva messo al bando la commissione, dichiarandola nulla sotto alcune condizioni, le banche si erano attrezzate di fatto, reintroducendo il massimo scoperto con una veste nuova. Recupero spese per ogni sospeso, commissione per istruttoria urgente e onere per passaggio a debito nel trimestre. Un espediente, quest'ultimo, che ha provocato non pochi rimproveri alle banche, ritenute colpevoli di avere escogitato altri sistemi per accollare ai clienti spese tali da compensare la fine dell'era del massimo scoperto. Un parere, questo, condiviso anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che la settimana scorsa aveva definito nulle le nuove voci di spesa apparse sui conti correnti dei cittadini. La manovra estiva, di fatto, pur non annullando le clausole introdotte dalle banche, ha fissato un tetto. In sostanza, la commissione dovuta alla banca non potrà superare lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Ma non è tutto. C'è anche un altro piccolo vantaggio per gli istituti di credito. L'entrata in vigore delle nuove norme sul massimo scoperto non è contestuale all'emanazione del decreto legge, ma è rinviata al momento della conversione in legge. Quindi le banche avranno 2 mesi di tempo in più per adeguarsi. 800 24 0024, numero verde per le domande degli ascoltatori. Il numero invece per i messaggi degli ascoltatori è il 349 238 6666. Avvocato Gatti, inizio con lei. A gennaio, quando avevamo riparlato di questo argomento, anche se lo abbiamo già rifatto poi anche nei mesi successivi, avevamo ricordato come la questione dell'abolizione del massimo scoperto fosse stato il pallino di Bersani, che non è riuscito ad abolire questo balzello con la famosa seconda lenzuolata, e più volte intervenuto il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, il presidente dell'antitrust Catricalà, di fatto ad abolire del tutto questo balzello, ma più, come dire, correttamente chiamiamolo un'importante fonte di ricavo per la banca, non c'è mai riuscito nessuno. È anche giusto che comunque per affidare dei conti la banca si veda riconosciuto qualcosa, e il problema è capire quanto la banca si debba vedere riconosciuta e soprattutto come debba funzionare nei confronti della clientela questa commissione. Il tema è la trasparenza proprio della commissione, credo l'oggetto poi di tutto il dibattito intorno alla commissione di massimo scoperto, o mi sbaglio? Lei che lavora anche con molte aziende che per questa commissione pagano anche dei conti salati. Assolutamente sì. Il problema è che purtroppo da un punto di vista di prassi bancaria e di diritto c'era uno scollamento tra quella che era la definizione della commissione di massimo scoperto. Se da un punto di vista giuridico la commissione di massimo scoperto era il compenso per la banca per la messa a disposizione di una somma, quindi legata ad un affidamento, a prescindere dall'utilizzo che il correntista ne facesse o meno, o comunque che l'impresa ne facesse o meno, d'altra parte si era sviluppata tutta una serie di balzelli, di oneri per i correntisti, che venivano comunque chiamati commissione di massimo scoperto, ma erano legati ai picchi di massimo utilizzo di un conto, a prescindere che il conto fosse affidato, a prescindere che il conto andasse in extra fido, a prescindere dal fatto che esistesse semplicemente un conto corrente e ci fosse uno sconfinamento di conto corrente. Il decreto anticrisi, il primo decreto anticrisi, quindi il 185 del 2008, che è stato convertito con la legge 2 del 2009, ha fissato una definizione legislativa in un certo senso, perché comunque è andato a definire che la commissione di massimo scoperto è solo ed esclusivamente quella che attribuisce una remunerazione per la banca per la messa a disposizione di una somma. Quindi tutto quello che riguarda conti che non sono affidati o comunque utilizzi extra fido di una somma di denaro di proprietà della banca non fa parte della commissione di massimo scoperto. Anche il nuovo decreto anticrisi, che ricordiamo non è ancora stato pubblicato, per cui tutto quello che diciamo va preso un attimino con le pinze, anche quello riprende comunque questo tipo di concetto di commissione di massimo scoperto. Nelle more tra i due decreti abbiamo assistito alla prassi applicativa delle banche, che in base a quanto era stato previsto appunto dal primo decreto anticrisi, che faceva salva la possibilità di negoziare alcune clausole relative alla messa a disposizione di denaro da parte delle banche con una remunerazione proporzionale all'utilizzo e all'importo dell'affidato, hanno cominciato ad inviare le lettere informative ai loro correntisti in cui si indicava quanto veniva applicato e come veniva applicato. In queste lettere informative abbiamo potuto vedere che in realtà non veniva trattato solo l'argomento della commissione di massimo scoperto, che riguardava solo i conti affidati, ma venivano trattati anche altri aspetti, quindi quello che veniva applicato, commissioni per lo scoperto, commissioni per l'extrafido e la commissione vera e propria di massimo scoperto, che è quella sulla quale il nuovo decreto anticrisi ha messo un cap e ha detto non può essere superiore allo 0,50%. Di fatto però questo nuovo provvedimento non ha definito invece tutte le altre strutture commissionate applicate ai conti se sono in assenza di fido, applicate ai conti qualora abbiano un fido e si utilizzi qualcosa di extra rispetto a questo. Quindi diciamo non è detto che però nel decreto pubblicato in Gazzetta qualche cosa possa uscire fuori. Questa è una cosa che ci siamo detti anche prima a microfoni spenti con Fabio Picciolini. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Questa mattina siamo ritornati sul tema della commissione di massimo scoperto, perché c'è stato un nuovo intervento del governo nell'ambito della cosiddetta manovra d'estate, che peraltro sarà affrontata a lungo dal Sole 24 Ore a partire dai prossimi giorni, da quando il provvedimento verrà pubblicato in Gazzetta. Ve ne daremo conto naturalmente, puntualmente, però state allerta perché ci saranno molti speciali, tutti appunto che vi daranno il dettaglio più specifico possibile dei nuovi provvedimenti del governo. Noi oggi intanto cominciamo ad anticiparne qualcuno, lo faremo anche domani sulla questione dei mutui e delle surroghe. Oggi però torniamo sulla commissione di massimo scoperto, perché è una questione che interessa molti ascoltatori che in questi mesi si sono visti recapitare da parte della banca una comunicazione nella quale si specificavano le nuove denominazioni di questo balzello, perché in sostanza il sospetto è questo: mentre il primo provvedimento anticrisi aveva stabilito che sui conti affidati il massimo scoperto dovesse essere la commissione di massimo scoperto dovesse essere a determinate condizioni annullata, e allora in sostanza le banche hanno attivato una nuova struttura commissionale da applicare anche ai conti in assenza di fido, da applicare anche ai conti affidati qualora si utilizzasse un extra fido. In sostanza qualche banca, Fabio Picciolini di Adiconsum, ha parlato di una razionalizzazione della struttura commissionale. A noi viene un po' sospetto che sia stata complicata, per la verità. Ma noi come associazione abbiamo incominciato a fare un glossario per vedere come si chiamano tutte quante queste commissioni, perché ogni banca ha usato una voce diversa, quindi già sarà difficile capire per una persona che ha due conti, ad esempio in due banche diverse, come la chiamano da un lato e come la chiamano dall'altro. Ma se mi permette, io vorrei fare due o tre considerazioni veramente rapide per titoli. La prima: la commissione di massimo scoperto sostanzialmente esiste solo in Italia. E questo già mi sembra abbastanza importante. La seconda: che il sistema bancario è così concorrente che, guarda caso, gli è servito un provvedimento amministrativo, un provvedimento di legge, perché non è stato capace a farsi concorrenza e si è tenuta questa commissione o queste commissioni. Qualche banca non ce l'ha però, Picciolini, questo va riconosciuto, non sono molte, no, però. Perché hanno fatto i furbi, perché l'hanno inserita nel tasso effettivo, così ecco. Domani possono inserire anche qualche altra commissione che oggi ovviamente non hanno. Terzo aspetto che non mi sembra di poco conto è che questa commissione colpisce soprattutto le piccole imprese, le medie imprese e le famiglie. E l'ultima, che io sinceramente quando ho letto il comunicato stampa, perché di più non c'è, del provvedimento, io non parlo del 0,5% trimestrale. A me sembra, e credo di non sbagliare, che comunque questa commissione è più alta di quella vecchia, perché noi parliamo di un 2% capitalizzato annuo, quindi vuol dire 2,05, 2,06 oltre il tasso di interesse, e peraltro ogni anno, non come ad esempio si fanno i prestiti internazionali, che per motivi di lavoro conosco un pochino, per cui si paga una management fee una volta, una tantum, diciamo così. No, qui la gente, le piccole imprese, le famiglie pagheranno il 2% e più ogni anno. Beh, certo, su uno scoperto di conto. Faccio l'avvocato del diavolo, Picciolini, è uno 0,5% massimo. Le banche potranno farsi un po' di concorrenza magari stabilendo dei tassi inferiori. Il governo ha detto questo è il cap, questo è il tetto massimo che potete toccare, o no? Io faccio da Roma a Milano a piedi, se faranno 0,49 io farò da Roma a Milano a piedi, sinceramente. No, io credo veramente, adesso per essere abbastanza rapido, io credo veramente c'è stato qualcosa che non ha funzionato la legge 2, non ha funzionato sinceramente neanche il governo e il Parlamento, perché il giorno prima, rispondendo a una interrogazione parlamentare con un documento della Banca d'Italia, era stato detto che la commissione doveva essere abolita, e il giorno dopo ci troviamo il 2,04, 2,05 anno a carico, ripeto, di piccole imprese, sono quelle che hanno purtroppo bisogno del fido a breve termine, e delle famiglie. Non mi sembra una grande vittoria. Abbiamo capito perfettamente la sua posizione, che è naturale che sia quella delle associazioni dei consumatori, che ci devono difendere e aiutarci soprattutto a capire che cosa cambia e tra l'altro nel mondo bancario, anche per effetto di numerosi interventi legislativi negli ultimi anni, non fanno altro che cambiare le cose. Il tema è che molto spesso, a fronte di interventi governativi molto, molto espliciti, le banche non si comportano in maniera altrettanto rapida. Peraltro anche questa della Commissione di Massimo Scoperto è divertente in termini di conseguenza. Avvocato Gatti, non so cosa ne pensa, perché mi pare di capire che così che rischia di diventare un po' come la penale di estinzione anticipata dei mutui, come la surroga, la sostituzione dei mutui stessi. Il governo decide prima e le banche poi non applicano intanto mai alla lettera quanto il governo stabilisce. Ma questo ci sembra anche un po' naturale che possa accadere. Le banche sono delle aziende private, perché devono uniformarsi ad un dettato di legge che non gli conviene? Non lo so, cioè... Beh, oddio, uniformarsi a un dettato di legge? No, sì, no, nel senso, sì, forse l'ho messa un po' male, però voglio dire, perché il governo deve stabilire quanto la banca deve... Ci sono già i tassi usurari, voglio dire, no? C'è già una norma precisa intorno a questo. Sì, assolutamente, tant'è vero che anche il decreto anticrisi ha poi è andato a precisare che comunque anche la commissione di Massimo Scoperto va computata ai fini dell'usurarietà dei tassi, quindi comunque è andato a esplicitare che anche questa commissione ha natura di interesse. Però è chiaro che se si lascia tutto all'autonomia negoziale, siccome da una parte abbiamo un contraente forte e dall'altra parte abbiamo contraenti deboli, il potere impositivo della banca è sicuramente più elevato. Quindi ben venga, secondo me, un intervento legislativo che imponga un limite, perché concordo con l'intervento del dottor Picciolini sulla effettiva rilevanza di un importo debitorio per commissione di Massimo Scoperto circa del 2% all'anno, che non è assolutamente basso. Però è altrettanto vero che nelle comunicazioni che erano state proposte dalle banche ai correntisti questi importi erano decisamente più elevati, perché arrivavamo fino al 3,75 o allo 0,95, quasi l'1% per trimestre. Quindi sicuramente quello che le banche desideravano era ben più di quello che attualmente il governo gli consente. Certo. Quello che secondo me oggi è importante precisare è che pretendono il riconoscimento di altre commissioni che, alla luce del decreto anticrisi, sempre che la pubblicazione non sconvolga tutto quello che era la legge 2, non dovrebbero essere legittime. Per esempio la nuova commissione che, in assenza di fido per Intesa San Paolo, si chiama Commissione di Scoperto di Conte, qui anche abbastanza chiara, si chiama per Unicredit Commissione per Utilizzi oltre la disponibilità fondi, per Monte dei Paschi si chiama Commissione di Istruttoria Urgente, quindi tutto ciò che accade ad un conto corrente che va rosso qualora non sia affidatario. Ma queste non sono commissioni, sono interessi che convenzionalmente devono essere normalmente un pochino più elevati degli interessi passivi normali, perché comunque sono utilizzati in mancanza di una provvista da parte del correntista. Però non si tratta di commissioni, non c'è niente di particolare se non un interesse che può essere stabilito nel contratto o essere un po' più elevato. Questo invece è però così. 2 euro per ogni volta che io sconfino, per ogni giorno, tra l'altro sono tutte cose che il decreto anticrisi aveva precisato che non erano né lecite né ammissibili, perché aveva precisato che le commissioni sono applicabili solo ed esclusivamente a contratti di conto corrente dove c'è un affidamento e quando l'ho scoperto si protrae per 30 giorni. Oggi quello che io posso dire è che secondo me alcuni istituti di credito stanno provando, dando una diversa denominazione, a reintrodurre cose che sono state dichiarate illecite e nulle dal decreto anticrisi. Non vediamo l'ora di vedere il decreto pubblicato in Gazzetta. Tra l'altro, non ci dimentichiamo che questi provvedimenti sono anche originati da uno stato di crisi non indifferente nel nostro paese, e per una banca, per un'azienda, andare in scoperto di conto in maniera più o meno elastica non è una questione di poco conto, perché significa mandare avanti l'azienda in maniera serena nella maggior parte dei casi, cosa che adesso molte aziende non riescono a fare anche per questo problema. Sentirei qualche ascoltatore. Allora, chi è che aspetta da più tempo? Probabilmente Alessandro da Pisa o Mauro da Lecco, ma cominciamo con Alessandro. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Buongiorno. Sì, Alessandro, dica. Sì, la sento. Niente, volevo fare una considerazione. Io sono un imprenditore e mi domando a cosa possa servire questa commissione, visto che poi l'articolo prevede che venga computata la somma degli interessi, per cui di fatto rientra nel discorso della verifica della quantificazione degli interessi. Se esiste un tasso di interesse che già oggi le banche hanno tenuto alto nel momento di crisi, pur essendo sceso il costo del denaro, che motivo abbiamo, visto che va tolta la commissione di massimo scoperto e loro si sono già tenuti alti coi tassi per salvare i propri bilanci ovviamente dalla situazione di crisi, che motivo hanno di applicare una commissione aggiuntiva? Cioè non capisco il provvedimento. E Alessandro, non ho capito se non capisce il provvedimento, l'ultimo, questo dello 0,50, ma così in termini generali. Comunque, Fabio Picciolini, vuole commentare lei la perplessità di Alessandro? Sì, diciamo che sotto l'aspetto formale le banche hanno, potrebbero anche avere ragione, perché comunque a fronte di un scoperto di conto ci deve essere, per Basilea 2, per norme bancarie, via dicendo, un accantonamento. Io lo capisco anche questa management fee, come viene chiamata poi a livello internazionale. Non mi convincono altre cose, non mi convince l'ammontare. Io ricordo che attualmente la commissione massimo scoperto media arrivata da banche del 0,66%, non è altissimo. Sì, Picciolini, abbiamo persa. Adesso tentiamo di recuperare. Sì, no, la stavo sentendo in maniera molto disturbata. Strano, è stato benissimo. Stavo dicendo, la commissione di massimo scoperto è 0,66 secondo l'ultima rilevazione di tassi di usura di 2 giorni fa. Il discorso, che cosa c'entra la commissione di istruttoria urgente? Non c'è nessuna urgenza quando si fa un'istruttoria. Oppure perché si danno extra fido e non dando invece un normale fido secondo la capacità dell'impresa? Ecco dove il sistema bancario, a mio avviso, sbaglia. Quindi io non mi spavento. E niente, continuiamo a perdere i Picciolini, magari riproviamo a fare la telefonata, non capisco cosa stia accadendo. Avvocato Gatti, lei voleva aggiungere qualcos'altro rispetto ad Alessandro da Pisa, un imprenditore che così si interroga proprio in termini generali sulla necessità che esista una commissione di questo tipo. Vabbè, in effetti, diciamo, giuridicamente, che della trasmissione giuridicamente lui dice, se comunque ha natura di corrispettivo per la banca e la banca percepisce già un interesse, non vedo la necessità di una duplicazione di compensi per la banca. Su questa cosa abbiamo già comunque argomentato parecchio, nel senso che nel suo caso specifico può essere che lui utilizzi tutto il fido, per cui le due voci si vanno in un certo senso a sovrapporre. Ad accavallare, sì. Se invece lui utilizzasse meno o tenesse una sacca di affidamento soltanto per i momenti bui e soltanto per i casi in cui per un giorno, per una settimana, dei ritardi nei pagamenti, è chiaro che la commissione di massimo scoperto avrebbe un tasso debitore sicuramente inferiore al tasso di interesse passivo, e quindi sarebbe anche nel suo interesse prevedere la commissione di massimo scoperto invece che un interesse passivo, chiaramente. Quindi questo potrebbe essere un po' una spiegazione in termini economici di quello che lui, delle sue perplessità. Stava suggerendo l'avvocato Gatti che magari varrebbe la pena approfondire la questione dell'istruttoria urgente, peraltro è la denominazione data alla commissione applicata al conto che Van Rossu in assenza di fido proprio da Monte dei Paschi, che abbiamo avuto la settimana scorsa, la commissione di istruttoria urgente. Perché ci stavamo interrogando su questo? Perché insomma un'istruttoria si apre per attivare un rapporto con la banca che magari ha una natura un po' più complicata, un mutuo, però insomma se abbiamo un conto corrente che è in assenza di fido, quindi il fatto che vada in rosso per un giorno, che diavoleria di istruttoria dovrà mai determinare? Non implica una valutazione della affidabilità e della solvibilità del cliente, a meno che il fatto che il cliente sia andato in rosso in un giorno non sia l'aspetto prodromico del fatto che si instaurerà con una banca un rapporto di apertura di credito. Quindi se io vado in rosso per una settimana di 5.000 euro e la banca ritiene che io possa aver bisogno di questi 5.000 euro per il mio ciclo imprenditoriale o quello che è, allora si potrà fare un'istruttoria se io diventerò un cliente che ha un affidamento, ma viceversa non ha assolutamente senso. E poi più volte in un anno, cioè se mi capita di andare in rosso per 5 volte in un anno, non è che dovrò essere valutato da un punto di vista di rischio. C'è un software che fa un conto rispetto a quello che devi alla banca, credo che... No, è proprio discrepante il principio della valutazione del rischio di ciascun cliente finalizzato a un rapporto duraturo, come può essere un affidamento piuttosto che un mutuo, come giustamente ha fatto l'esempio lei, rispetto a una... evento spot nella vita di un conto corrente. Infatti, che ma a volte può essere determinato banalmente perché lo stipendio arriva in ritardo e quindi solamente un gioco di valute, del quale spesso può anche capitare che il cliente sia del tutto inconsapevole. Anche questa è una questione molto delicata. Peraltro io ho citato Monte dei Paschi perché è l'unica che chiama questa commissione di istruttoria urgente. Picciolini, però mi risulta che proprio questa banca, insieme ad un'altra che adesso non mi ricordo al volo, sia stata l'unica a chiedere direttamente un parere rispetto alla nostra struttura commissionale all'antitrust, e forse si è voluta confrontare anche con voi, associazione dei consumatori. No, ma senz'altro, il Monte Paschi ha avuto incontri con noi, ovviamente non è che eravamo pienamente d'accordo, questo mi sembra abbastanza ovvio, ma quantomeno ha semplificato la propria struttura commissionale, questo non è assolutamente un male, come sappiamo per certo, che ci è stato detto ufficialmente, che appunto hanno sentito anche l'antitrust. Il problema però è di sistema, io continuo a dire, io vorrei sapere qual è la differenza in giorni di approvazione di un istruttore urgente rispetto a una ordinaria. Io sono convinto che non c'è differenza, sinceramente. Cioè, ripeto, è un qualcosa che dal novembre scorso non funziona. Era stato detto da tutti, partendo dall'antitrust e dal governo della Banca d'Italia, che questa è una commissione che non deve più esistere. Allora, invece, e ripeto, con una risposta parlamentare è stato detto che andava abolita. Noi ci troviamo il 2% e più peraltro a novembre e non oggi. Anche questo qui chissà cosa avverrà in questi 5 mesi, 4 mesi e mezzo. Ecco, infatti, perché poi a furia di cambiare la normativa, poi esatto, c'è molta gente che magari paga quanto non deve, e perché la normativa cambia e magari va a chiedere alla banca di vedersi restituire balzelli pagati in eccesso, non riesce ovviamente, e insomma poi i problemi che si scatenano sono una valanga infinita. Mauro Da Lecco, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Dunque, io sono un piccolo imprenditore e ho avuto qualche problema con la commissione di massimo scoperto l'anno scorso. Uh-huh. E cioè che questa commissione di massimo scoperto, che è sempre stata poco significativa sullo stato conto societario, a un certo punto arriva con un importo elevato. Arriva con un importo elevato e scopro, andando a ritroso in ben 4 anni di controlli, che questa commissione di massimo scoperto è stata applicata per una serie di errori e conteggi errati rispetto a quello che erano i versamenti che noi facevamo e che dovevano evitare. Certo. E ovviamente se ne è accorto lei, Mauro, mai che sia che la banca si accorga di una, come dire, un conteggio sbagliato che può andare avanti tranquillamente per 4 anni. Per diversi mesi chiedo ai normali miei corrispondenti delucidazioni in merito e ottengo semplicemente delle risposte vaghe, generiche, vaghe, forse c'è un problema nel software, forse cambiando le procedure è successo questo. Quanto le è costato tutto questo, Mauro, peraltro, perché mi pare di capire che potrebbe essere anche una questione No, tra l'altro la cosa è anche un pochino complessa, perché dovrei dilungarmi in una situazione diciamo personale, ma comunque ecco, il costo che ho verificato è di circa 3.720 euro. Perché mi sono accorto che la commissione di massimo scoperto era al di fuori di quanto legittimamente era dovuto? Del 110% rispetto all'addebito degli interessi trimestrali, cioè al di fuori del testo unico bancario vigente, che la limitava al 50%, cioè, mi spiego meglio. Sì, Mauro, anche perché abbiamo un legale che forse così ha immaginato che possa fare un po' di confusione normativa, perché lei attribuisce al testo unico? No, perché, il testo unico bancario allora diceva che, cioè prima dell'ultima variazione, diceva che la commissione di massimo scoperto, l'importo della commissione di massimo scoperto sull'estratto conto non può superare il 50% degli interessi passivi addebitati in conto in quello stesso estratto conto. Invece era del 110%. Allora, aspetti un po', Mauro, un attimo, la faccio interagire con il nostro legale che non capisce bene la ricostruzione legislativa che fa lei della questione. Detto questo, in ogni caso, Mauro ha appurato, anche se tutta la documentazione poi attinente a questa circostanza andrebbe ben vista per poter dare un parere corretto, quindi questo ovviamente lo dico per l'avvocato, ma ammettendo che Mauro avesse ragione, avvocato Gatti, e questa somma fosse stata percepita non illecitamente da parte della banca, intanto che, come dire, che cosa può fare l'avvocato? Fare un bel reclamo alla banca direttamente e poi subito andare da un legale? Cioè, perché sicuramente potrà chiedere la restituzione di quanto è stato indebitamente percepito dalla banca e potrà chiederlo da prima con una diffida stragiudiziale anche personalmente, oppure si dovrà rivolgere a un legale per agire in giudizio nel caso in cui la banca si rifiuti di restituire volontariamente le somme che il cliente ritiene che la banca abbia percepito illegittimamente. Sicuramente un contenzioso di questo tipo è un contenzioso abbastanza oneroso, quindi per una cifra come quella del nostro ascoltatore non so se è consigliabile un'azione giudiziaria, perché comunque di certo sarebbe necessaria una perizia tecnica per calcolare puntualmente quelli che erano gli importi dovuti, se dovuti e quando dovuti, e quindi sicuramente tra spese legali e spese di perizia, quantomeno in una prima fase ci sarebbe un'anticipazione più elevata di quello che poi l'importo che il cliente deve andare a recuperare. Magari Mauro, se ha tempo, ci scriva, diamo un'occhiata volentieri alla sua questione, però magari non me la denuncia. Sono solo 24 ore, magari a volte rappresenta un deterrente un po' più forte rispetto ad altre iniziative. Allora abbiamo ancora un paio di minuti di tempo, sentiamo Antonio da Salerno. Antonio. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Io la chiamo, buongiorno. Io volevo dire che se l'intento era quello di abolire una serie di costi impropri, chiamiamoli così, attraverso l'abolizione della commissione massimo scoperto, cioè l'intento che si è raggiunto è l'opposto, perché adesso le banche hanno introdotto queste commissioni sugli affidamenti. Quindi, dipendentemente dal fatto che uno utilizzi o meno il fido, viene adesso applicata una commissione che di solito è il doppio della commissione massimo scoperto. Almeno nel nostro caso questo aumenterà di molto i costi bancari. Poi un'altra cosa, per piacere non parlate più di abolire niente, perché ogni volta che voi parlate di abolire loro mettono in campo qualcos'altro. E come diciamo noi, Antonio, esce dalla porta e rientra dalla finestra, qualunque balzello venga abolito. E in sostanza allora, questo cap è quello che diceva Fabio Picciolini, avvocato Fabio Picciolini, mi sente, non so se Antonio ritornava un po' sulla questione probabilmente di questo 0,50% come tetto massimo, che è ricapitalizzato su base trimestrale, rischia di far, come dire, diventare la vecchia commissione qualcosa che diventa un onere ancora più importante rispetto a prima. Esatto, però se permette volevo un attimino due considerazioni, una sul telefono precedente, sì, che sono proprio il signor Mauro. Sì, sì. C'è una cosa che potrebbe essere utile in questo per il suo problema, che da settembre sarà attivo il sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie presso la Banca d'Italia. E siccome andrà indietro nel tempo almeno di un anno e costa solamente 20 euro alla fine, solamente spese di istruttoria, forse un tentativo io lo farei qua a settembre per verificare invece andare subito al legale. La seconda cosa, che invece è quella che mi preoccupa un attimo di più, è vero, lo diceva prima l'avvocato Gatti, che queste nuove commissioni debbono essere inserite nel tasso effettivo globale ai fini appunto del tasso soglio, il tasso di usura, però attenzione, questa norma ancora non è entrata in vigore e anche la nuova rilevazione dei tassi di usura da parte di Banca d'Italia ancora deve essere pubblicata sul Gazzetto Ufficiale, quindi noi rischiamo di avere importi e commissioni varie ancora al di fuori del tasso di usura, come è oggi la commissione di massimo scoperto. Grazie a Fabio Picciolini, grazie all'avvocato Gloria Gatti. Salvadanaio anche stamattina termina qui, un po' più breve del solito, abbiamo dato spazio agli approfondimenti sulla tragedia di Viareggio, ma siccome non abbiamo ancora, come ribadisco, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto fiscale, quello di venerdì scorso, che interviene di nuovo sulla commissione di massimo scoperto, stamattina abbiamo cercato di capire quello che potrebbe cambiare. Siccome potrebbe esserci qualche altra novità, non appena vedremo concretamente la pubblicazione in Gazzetta, sicuramente avremo modo di rifarci un'altra puntata, di accogliere ancora una volta i malumori dei nostri ascoltatori. Grazie, noi ci risentiamo domani, buona giornata a tutti.